But I feel almost dead when I die. Oh, che tria, che tessera figlia. Stoli mani enna che Dio che tria che tessera Puglia. Possi celana e hoenna che Dio che tria che tessera Bedia. Pussa famega lo su nolla naghi. Le vende schiare tupiria. O so chi am saxo den vriscuallo limoni trailin a mexicani. O so topire Puglia.